Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 17 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici su Liberi Dentro e Eduradio TV, ora in onda su Radio Città Fujiko, Lepida TV canale 118 e Teletricolore canale 636. E per questo programma che parla tra carcere e città, ormai molti di voi lo conoscono, io sono sempre Caterina Bombarda alla conduzione con Antonella Cortese di questo programma. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. E come sapete, per chi di voi ha ascoltato la nostra rassegna stampa e anche la nostra rassegna sociale, anche internazionale, che parla di carcere, ma non solo, concludo, siccome ve l'ho raccontata tutta la settimana, questa lunga indagine che riguarda la criminalità giovanile in Italia, intitolata per l'appunto Ragazzi Dentro, un'indagine sulla delinquenza su Repubblica a cura di Carlo Bonini e Isaia Sales. Negli ultimi giorni abbiamo scoperto che i dati sulla criminalità del nostro paese sono i più bassi d'Europa, che in Italia si cerca di ricorrere meno possibile al carcere, molto di più alle misure alternative al carcere, e tutto questo ha premiato, nel senso che ricorrendo alle misure alternative i ragazzi delinquono meno, che la forbice tra criminalità nord e sud Italia è veramente spiccata, al nord si delinque molto di più che al sud, e abbiamo anche sfatato qualche mito, o cioè dicendo che non è proprio vero che delinquono i minori stranieri, ma 70-75% sono minori italiani. Poi ieri abbiamo parlato delle baby gang, presentando tutte le caratteristiche, insomma abbiamo capito che la criminalità minorile è un fenomeno complesso che è molto diverso in tutta Italia, da regione a regione. E come ha ricordato Isabella Mastropasqua, che è il dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Promozione della Giustizia Minorile, lei dice: la criminalità minorile è condizionata dalla presenza nel centro-nord di una forte presenza straniera non integrata e di un disagio urbano notevole, e al sud dalla presenza di organizzazioni mafiose e da un impressionante degrado sociale e culturale. Caterina, tutto sembra essere molto chiaro, perché tutto è decifrabile, quello che è stato detto, però ci sono dei settori che il nostro paese potrebbe sviluppare per arginare questo problema? Allora, fra tutte le questioni, quella più urgente è quella della scuola. Sembra incredibile che non ci si renda ancora conto che ogni abbandono scolastico è una sconfitta per il nostro paese ed è un problema che si ripresenterà molto spesso come un problema criminale negli anni successivi. Eppure si fa ancora troppo poco per integrare gli stranieri e per riportare a scuola i giovani italiani, soprattutto meridionali, che l'hanno abbandonata. La scuola italiana, la società, la politica sembrano quasi impotenti di fronte a questo problema, e di fronte a un problema evidentissimo che a prima vista non sembra così difficile da affrontare. E che dire poi del fatto che non ci sono assistenti sociali nei comuni dove sarebbero più necessari. Bene, questa inchiesta propone una cosa, cioè di fare un concorso nazionale per assistenti sociali per le realtà dove si supera un certo rapporto tra popolazione minorile e reati, e che si usino le risorse europee a ciò destinate. Sarebbe una buona idea, effettivamente. Effettivamente. Senti, però il problema della criminalità minorile è prevedibile, sembrerebbe così da quello che abbiamo detto finora. Quindi possiamo sapere con una certa sicurezza dove siano le città metropolitane maggiormente coinvolte? Sì, perché quando si leggono i dati sul rapporto strettissimo tra tasse di disoccupazione, di abbandono scolastico e dei precedenti penali nel nucleo familiare, è ovvio che c'è un'implacabile connessione tra la delinquenza minorile e quello che c'è nella nostra società, tranquillamente. Quindi sono dati che ci dicono che è possibile prevedere in largo anticipo in quali quartieri, in quali rioni, in quali famiglie addirittura, in quali classi di età si formeranno i futuri ospiti degli istituti di pena minorili e successivamente delle carceri per adulti. Ma io, Antonella, vorrei concludere qui la nostra inchiesta raccontandovi cosa scriveva la mazziniana garibaldina Jessie White Mario nel 1877 in un'inchiesta svolta nei quartieri più degradati della città partenopea. Lei scriveva: quando si pensa che lo Stato, per obbligo della propria sicurtà, è costretto ad albergare, custodire, nutrire vestire e vestire tutti i suoi figli una volta che sono rei, è strano davvero che se ne dia così poco pensiero finché sono innocenti e in grado di divenire utili e onesti cittadini. Tradotto, si fa davvero troppo poco per prevenire e invece ci occupiamo solo del curare i cocci rotti. Bisognerebbe veramente fare di più. Vi lascio con una canzone, Vasco Rossi, Quante volte, ci vediamo tra pochissimo. Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà. Quante cose sono passate ormai. Quante cose che non torneranno mai. Quante volte ho pensato nella vita, posso fare anche senza di te. Poi mi risvegliavo tutto sudato, senza capire perché. Quante volte ho sbagliato, sì, quante volte è andata bene così. Quante volte ho fatto finta di niente, ma ho capito, sì, quante volte sono arrivati i guai, anche se ero già migliore ormai. Io non voglio più vivere solo per fare. Io non voglio più ridere, non mi diverto più ed è colpa mia. Non ho voglia di credere che domani sarà, sarà diverso e poi chi lo sa. Bentornati dopo la pausa musicale, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV e continuiamo il nostro venerdì animalesco con te Antonella. L'animale di oggi qual è? Caterina, l'animale di oggi è un neonato, è un piccolo gorilla, un cucciolo che è nato nel Parco Nazionale Congolese di Kahuzi Biega, nella regione del Sud Kivu, della Repubblica Democratica del Congo. E negli ultimi anni questo luogo è stato teatro di scorribande, di gruppi armati e di attività illegali, come tutti sappiamo. Però questa volta c'è una bella notizia. I responsabili del parco hanno diffuso la notizia della nascita di un cucciolo di gorilla, un vero e proprio segno di speranza, così come lo ha definito il portavoce del parco. E anche i responsabili del parco sulla loro pagina Facebook dicono che siamo lieti di annunciare la nascita di un neonato della femmina Nwinya. Le nostre guardie erano lì e hanno catturato questo momento di intimità sabato 7 agosto. La mamma gorilla sembrava felice di mostrare il suo bambino ed entrambi sono in buona salute. Io mi immagino proprio la fotografia di questa mamma gorilla che fa vedere il cucciolo. Ma era il primo cucciolo di questa gorilla? Allora, questa gorilla che si chiama Winia ha già avuto in realtà altri neonati, altri cuccioli, però è il suo primogenito con Nambirembo, il maschio che ha dato il nome a due delle famiglie che vivono nel parco. Questo parco, devi sapere, che è un santuario per gli ultimi gorilla di pianura orientale. E ora gli esemplari sono passati in effetti da 171 a 172. E questo parco appunto situato nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Pensa che negli anni 90, a causa delle guerre ricorrenti e della presenza di più gruppi armati nella regione, l'UNESCO ha inserito il parco nella lista dei siti in pericolo del patrimonio mondiale. E il parco inoltre vive un conflitto con le comunità pigmee che credono che gli siano state rubate le loro terre ancestrali, e questo è un problema grosso che si sta creando ultimamente sempre di più, perché i parchi nazionali sottraggono territorio alle popolazioni indigene e sta nascendo un conflitto che potremmo definire una guerra tra gli ultimi, no? Un po' così. Ma Antonella, intanto scorrono le immagini dei gorilla mentre stiamo parlando sulla TV, sono gli animali che ci assomigliano di più fisicamente, ma perché anche? Intanto ti dico che i bonobo sono insieme agli scimpanzé i nostri parenti più prossimi, però intanto ti voglio raccontare di Coco, così rispondo alla tua domanda, perché ha suscitato grande interesse in tutto il mondo per la sua capacità di comunicare nella lingua dei segni. Questo gorilla femmina era infatti in grado di utilizzare, pensa, più di 1000 segni appresi dalla sua istruttrice e addirittura comprendere oltre 2000 parole in lingua inglese. E con gli esseri umani i gorilla condividono sia la capacità di apprendimento che di espressioni delle emozioni. È incredibile, ma descrivici i gorilla, come sono fatte? Allora, le più grandi scimmie antropomorfe, appunto questi gorilla, hanno un corpo robusto e tarchiato. Il maschio adulto è anche detto silverback per la caratteristica schiena colore bianco argentato. I gorilla sono animali intelligenti e sociali che vivono in gruppi familiari formati da più femmine con 4-5 cuccioli e un maschio dominante. I gorilla superstiti vivono esclusivamente nelle regioni dell'Africa centrale e ne esistono due specie, il gorilla occidentale e quello orientale di cui abbiamo parlato poco fa, con due sottospecie ciascuna. Negli scorsi decenni le conseguenze di povertà, disordine e guerre hanno fortemente ridotto le popolazioni di gorilla e il lavoro del WWF era ed è tuttora molto pericoloso in molte regioni popolate appunto dai gorilla stessi. Comunque l'attività a livello politico, le iniziative di sensibilizzazione e gli sforzi intrapresi a tutela di questi animali hanno per fortuna consentito una lieve ripresa di alcune popolazioni. Certo, adesso dobbiamo continuare a impegnarci affinché le leggi siano rispettate, i bracconieri giustamente sanzionati e la povertà combattuta. E Caterina, io cercavo un brano musicale che avesse a che fare con i gorilla, ma c'erano tante cose per bambini. Poi mi sono ricordata di un gruppo, proprio i Gorillaz, e allora vi propongo i Gorillaz con una canzone che si chiama Clint Eastwood. Ascoltiamola. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. But not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is priceless to you, because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. La nostra ospite di oggi è Giulia De Rocco. Buongiorno Giulia. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Dottoranda in scienze dell'educazione all'Università di Bologna, per parlare oggi di quello che credo sia un luogo di riflessione permanente, potremmo dire, che conosciamo tutti. Pensate che esistono dal punto di vista pubblico, ecco, fin dal primo secolo avanti Cristo, e come diritto e come servizio anche dentro le carceri, non dal primo secolo, ma nelle fasi più recenti, diciamo. Stiamo parlando delle biblioteche. So che tu, Giulia, hai svolto una tesi universitaria sul tema delle biblioteche in carcere. Come mai ti sei imbattuta in questo tema? Allora, è una domanda interessante. Io sono laureata in lettere moderne contemporanee, e nella mia tesi magistrale ho voluto approfondire questo tema perché a un certo punto dei miei studi ho deciso di intraprendere un servizio civile, perché ero un po' stanca di occuparmi di cose solamente molto teoriche, perché come potete immaginare laurearsi in lettere significa leggere moltissimo, cose molto interessanti, ma a un certo punto avevo voglia di mettere le mani un po' in pasta. E ho svolto questo servizio civile in un'associazione che si occupa di carcere a Verona, che si chiama Associazione della Fraternità, che è stata fondata da Fra Beppe Prioli, che forse alcuni conoscono, e ho iniziato questo servizio civile in cui ho fatto varie attività in carcere e fuori dal carcere. Mi occupavo nello specifico della redazione di un giornalino interno al carcere e di un centro d'ascolto per familiari di detenuti. E con il giornalino interno al carcere ho iniziato ad entrare nelle biblioteche, perché la sede della redazione era in biblioteca, e quindi nella mia tesi magistrale ho voluto un pochino unire le mie due passioni, che erano quelle per la letteratura e per la lettura e quella per la giustizia e la situazione delle carceri in Italia. Quindi è stata una sintesi delle mie passioni. Ma io sono stupita, perché queste interviste sono anche un modo per noi della redazione di conoscere meglio i nostri ospiti, quindi direi una passione che si è unita anche poi a un'esigenza, che è quella dentro il carcere di parlare, di ascoltare, di ascoltarsi vicendevolmente, quindi complimenti. Ti chiedo anche allora di raccontarci come funzionano le biblioteche all'interno del carcere. Allora, le biblioteche sono normate dall'ordinamento penitenziario, che all'articolo 12 prevede che in tutti gli istituti esista una biblioteca e che tutti i libri, diciamo, rappresentino il pluralismo culturale che esiste nella società, e se esiste nella società esiste anche in carcere. Quindi diciamo che dal punto di vista della norma, la lettura e la biblioteca sono un diritto che le persone che sono temporaneamente in carcere hanno. La situazione, come per molte cose, varia da istituto a istituto in Italia. Io conosco molto bene la biblioteca del carcere di Verona, perché l'ho frequentata per il mio volontariato e per i miei studi. Però appunto adesso con gli studi che sto facendo recentemente sto iniziando a cercare di capire come funzionano in tutti gli istituti di pena. Generalmente ci sono almeno due biblioteche, una nelle sezioni maschili e una nelle sezioni femminili, e ogni istituto norma in modo diverso l'accesso alla biblioteca. Quindi diciamo che non si può fare un ragionamento, come dire, trasversale su come funzionano. Sono a libero accesso di tutti. In alcune biblioteche ci sono dei turni a seconda delle sezioni, in alcune biblioteche c'è qualcuno che fa il bibliotecario, in altre biblioteche ci sono dei volontari di associazioni. Però ecco, è una possibilità per tutte le persone detenute. Grazie Giulia, lanciamo una canzone a metà della nostra intervista e ci rivediamo tra pochissimo. I want a tiger on bended knees, with all the kindness of the Japanese. I just want some affection. Wish I heard voices, wish I was a telephone. Yeah, special girl, and she works in a library, yeah, standing there behind the counter, willing to help with all the problems that I encounter. Helps me find Hemingway, helps me find Genet, helps me find Brett, helps me find Chandler, helps me find James Joyce. She always makes the right choice. She's no queen, she's no angel, just a peasant from the village. She's my God, she's my God, she's my G-O-D. She's my God, yeah, yeah, she's my G-O-O-D, yeah. She's my God now, oh, she's my God now, yeah. Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, Karen, yeah, yeah, yeah. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio TV. Dopo la pausa musicale siamo sempre a colloquio con Giulia De Rocco, dicevo, dottoranda in scienze dell'educazione all'Università di Bologna. Lei, tu Giulia, hai fatto una tesi di cui ci stai parlando sulle biblioteche all'interno del carcere e ci hai raccontato come funzionano le biblioteche all'interno. Ma ad oggi, dopo questa tesi, di cosa ti occupi? Io sono al primo anno di un dottorato di ricerca sempre sul tema delle biblioteche in carcere nel Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna. E nella mia ricerca mi occupo appunto di indagare come le biblioteche sono o possono essere utilizzate come ambiente importante per il percorso di detenzione delle persone che si trovano in carcere. Accanto alla mia ricerca di dottorato, io mi sono sempre occupata, dopo la tesi di laurea e continuo ad occuparmi, di organizzare gruppi di lettura per le persone detenute e anche non, sia dentro che fuori al carcere. Ho fatto dei gruppi di lettura nel carcere di Verona e dei gruppi di lettura insieme all'ufficio di esecuzione penale esterna, sempre di Verona. Giulia, dicevi che hai fatto un laboratorio di lettura all'interno del carcere. In cosa consiste? Cosa facevi? Vi parlo dell'ultimo che ho fatto, così è più semplice, è un racconto più semplice perché è più accessibile dai miei ricordi. Ho fatto un gruppo di lettura per le ragazze e le donne detenute nel carcere di Verona, in cui abbiamo letto insieme dei testi che hanno scritto delle grandi scrittrici della storia, quindi letteratura scritta da donne, per le donne e non solo, e abbiamo approfondito appunto alcuni temi legati a cosa significa essere donne nella società, non solo nella società contemporanea, ma cosa ha significato essere donne nella storia. E il gruppo consiste nel leggere insieme alcuni testi che io seleziono e, a partire da quei testi, raccontarsi le proprie posizioni, i propri sguardi, i propri pareri, i propri vissuti, in un modo proprio molto libero e collettivo di prendere la parola. Alla prossima, ti ringrazio tantissimo. Grazie e con noi su Eduradio. A presto. Grazie, ciao. Ciao. E ci salutiamo, concludiamo questa settimana appunto salutandoci, ridandovi appuntamento a lunedì prossimo. Intanto ascoltate le nostre rubriche sempre su Radio Città Fujiko alle 6 del mattino, anche per tutto il weekend e anche al pomeriggio sull'Epi dalle 13.30 alle 17 su Teletricolore. Abbiamo Islam, religione, civiltà oggi pomeriggio e a seguire ginnastica da camera. Però vi accompagniamo anche al sabato con il Teatro dell'Argine e a seguire parliamo di buddismo e al termine Just Mercy. E la domenica abbiamo Note Libere e a seguire la rubrica di cucina del FOMAL. Buona settimana a tutte e tutti e mi raccomando scriveteci redazione liberi dentro @gmail.com. Ciao, a lunedì. Liberi dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.